Il punto di Stefano Folli. Sarà certo debole e poco incisivo il governo di Enrico Letta, ma il paradosso è che proprio i fattori della sua debolezza sono anche gli elementi della sua forza, almeno per quanto riguarda la capacità di puntellarsi e sopravvivere. Il primo di questi elementi è la difficoltà parallela in cui annaspano i due maggiori partiti della maggioranza. Le liti interne nel PD alla vigilia del congresso e le lotte nel PDL fra super berlusconiani e moderati filogovernativi hanno qualcosa di simile. Interessano poco o niente all'opinione pubblica, ma sul piano politico si traducono in un vuoto, in una mancanza di iniziativa che permette a Letta di restare in piedi. Manca, è evidente, un vero slancio riformatore, ma in altri contesti un episodio come il caso Cancellieri sarebbe stato devastante. Nella condizione attuale può invece essere riassorbito, proprio perché PD e PDL hanno bisogno di tempo per guarire dalle loro ferite.